senza sé. Altre forme, altre donne, altre rapper, rasta parte che si cingue. Cinque discipline, ma è contato, divine rime, beat programmato. Son partito da 9-0, sto scendendo, mi 004 più in basso, più fresco, più conoscenze a disposizione di chi. 13 MCs celebrano anniversari per la morte degli avversari. Propulsori proprio sotto le scarpe, suole che non hanno mai toccato asfalto e ne parlano. Spacciatori di flow in quanto si spacciano e tagliano. Da denuncia che pronuncia rinuncia ridente. Ricorda quello che ti ho insegnato, non piangere sul latte macchiato, mi hai capito? In gara per il primato del piumato ad incastro. Mi sa che il rap non è il gratis. Se lo studio a tavolino un bambino mi cresce molto più sano, ne vado fiero e lo stimo. Stimo i primi versi, visioni, rima e passi. Prima papà, mamma e papà e dopo forse. Altre forme, altre donne, altre rapper, rasta parte che si distingue. Cinque discipline, me contato, divine rime, beat programmato. Son partito da 9-0, sto scendendo, mi 004 più in basso, più fresco, più conoscenze a disposizione di MC. R, happy, pungono MCs, apri, capre da latte con biscotti stati, affilati da noi, bette bigi, bette business, bette bette amici. 13 metto su impianti metrici, che dici? Ci sono i retici, se c'è pace medici, per cure, torture, procurami percosse, per cose di poco complicate. MC figli della terza disciplina, rima la mia rovina è che come tantina caffeina, 16 battiti tu in vena, microfono, linea. Bicicletta da corsini, special step. Forme, altre donne, altre rapper, rasta parte che si distingue. Cinque discipline, me contato, divine rime, beat programmato, sono partito da.